17 dicembre 2006. Mi alzo al mattino e, come di consueto, penso alla giornata che ho programmato secondo le mie prospettive. E domenica, la comunità alla quale appartengo ha organizzato, oltre al consueto studio biblico e alla cena del Signore, un giorno di comunione fraterna durante il quale si pranzerà assieme. Terminato il culto, mi avvicina una sorella in fede e tutta gioiosa mi presenta una donna sposata di nome Camilla, dicendomi che era sua nipote e che partecipava per la prima volta ai nostri incontri. Ho subito notato in lei un viso trasparente, due occhi sinceri, per questo le ho chiesto immediatamente che cosa ne pensasse di Gesù. Mi disse di essere figlia di una credente, che le cose di Dio le interessavano, che avrebbe voluto anche credere, ma non ne era capace. Capii subito che era un'anima da seguire. Poiché nella sala vi erano più di un centinaio di persone che chiacchieravano, la chiamai in disparte e iniziai a esporle il piano della salvezza. Ciò che stavo dicendo non le era nuovo, e al mio invito di fare una scelta per Cristo, la vedevo frenata da qualcosa. Il mio stupore poi aumentava perché di tanto in tanto ripeteva: «Io voglio credere, ma non riesco». Poiché la confusione delle persone che parlavano disturbava, andammo in una saletta e chiudemmo la porta. Nella calma potei parlarle di nuovo della necessità di diventare figli di Dio, aggiungendo che, se questo era il suo desiderio, doveva riconoscersi una peccatrice perduta. Si rendeva conto che il suo ostacolo alla conversione era quello di non essere convinta di essere perduta, perché era figlia di credenti, non aveva commesso gravi peccati e di conseguenza non si vedeva poi così peccatrice degna della condanna eterna. Capiva che doveva nascere di nuovo per entrare in cielo, ma non aveva una motivazione tale da obbligarla a decidere di scegliere Cristo come suo Salvatore. Ripeteva del continuo che voleva scegliere Cristo come il suo Salvatore e padrone della sua vita, ma non era capace di dire una sola parola. Vedendo che la sua volontà era così fortemente ostacolata, le chiesi se per caso avesse avuto a che fare con l'occultismo anche solo per gioco. La domanda non era casuale, perché nella mia esperienza di condurre anime a Cristo, ho notato che quando qualcuno vuole credere in Cristo e non riesce, generalmente ha avuto a che fare con l'occultismo o con la consultazione di carte o ha partecipato a una di quelle riunioni nelle quali si muovono o si sollevano tavolini o altre cose del genere. Infatti, solo un mese prima, la zia di Camilla con sua sorella e suo cognato mi avevano invitato a casa loro per parlare dell'Evangelo. Si presentarono come dei credenti salvati, che da tempo frequentavano una comunità, ma di fronte al mio messaggio e al mio Evangelo si resero conto di essere perduti. Quando chiesi loro di invocare Gesù Cristo, tutti e tre pregarono, ma le loro preghiere non mi resero soddisfatto. Pregarono sì, ma espressero la volontà di voler credere, senza confessare di essere perdute, e come tali di accettare Cristo quale unica risposta alla loro perdizione. Li invitai a invocare Cristo come loro Salvatore, ma non ne erano in grado. Fu così che chiesi se avessero avuto a che fare con l'occultismo, e tutti e tre risposero subito di sì, ma che a queste esperienze non davano molta importanza. Quella sera, nel corso della conversazione, a tutti e tre vennero in mente tanti altri episodi che li avevano legati all'occultismo, e presi dal terrore, prodotto dallo Spirito Santo, decisero con tutto il loro cuore di scegliere Cristo quale soluzione ai loro problemi. Nello spazio di pochi giorni queste tre anime si arresero a Gesù Cristo invocandolo come il loro unico Salvatore, come unico padrone della loro vita e come unico liberatore dalla potenza di Satana. Ma Camilla non aveva il problema dell'occultismo, eppure non era in grado di fare una scelta per Cristo nonostante lo volesse. Cosa dire? Conosceva il piano della salvezza, sapeva cosa bisognava fare per diventare figli di Dio, ma questo non bastava. Piangeva come non mai, era tutta sconvolta, diceva a se stessa che voleva credere e che non era in grado, e quando ormai avevo perso ogni speranza mi resi conto che se anche non aveva avuto esperienze con l'occulto che l'avevano legata a Satana, era comunque schiava di Satana. Così glielo dissi. Sorpresa. Camilla mi chiese perché fosse schiava di Satana, ed io gli risposi che se voleva credere, e non era in grado neppure di pregare, significava che qualcun altro glielo stava impedendo, e questo non poteva essere altro che il nemico delle anime, cioè Satana, l'avversario di Dio. Mediante lo Spirito Santo, Camilla si rese conto di essere totalmente schiava di Satana e, con una preghiera scaturita da una volontà ciclopica, pregò, invocò, implorò, supplicò e alla fine arrese completamente la sua volontà, le sue ambizioni, il suo futuro a Cristo. Il pianto si trasformò in un dolce sorriso, la pace scese nel suo cuore. Un dolce fraterno abbraccio di riconoscenza mi annunciava che nel regno di Dio era entrata un'altra anima. Il pranzo ormai era quasi alla fine. Camilla tornò a sedersi a tavola vicino alla zia e al marito di questa, un uomo che ascoltava da tempo l'Evangelo senza opporvisi ma senza neppure decidersi. Nel vedere sua nipote gioiosa, i due sposi capirono subito che in lei era avvenuta una trasformazione e la zia, rallegrata, disse: «Adesso speriamo che anche mio marito scelga per Cristo». Senza aspettare, il marito rispose: «Quando devo scegliere, lo decido poi io». A questa risposta gli feci presente che lui non era il padrone del tempo, perché, se moriva prima di sera, era perduto. Notai che ricevette un colpo nello stomaco, per questo aspettavo un momento opportuno per continuare la mia operazione chirurgica spirituale. Poco dopo venne il momento dei dolci che erano disposti su di un tavolo alla portata di tutti e mi ritrovai faccia a faccia con questo uomo, il quale mi disse: «Io non posso prendere dei dolci perché sono diabetico». «Anch'io sono diabetico», risposi tutto contento, perché finalmente avevo una ragione per conversare senza partire da presupposti spirituali. Una parola tirava l'altra, ma io di tanto in tanto parlavo di Cristo. Notai che gli argomenti in relazione a Dio lo commuovevano così, con la scusa della confusione. Lo invitai nella cameretta silenziosa. In quel luogo sereno e tranquillo l'uomo iniziò a raccontarmi la sua vita. Mi confidò di essere molto nervoso e per questo la pressione era alta. Mi svelò episodi che non aveva detto a nessuno ed io intuì che lo Spirito Santo stava operando in lui. Nei suoi discorsi cercava di spostare la conversazione lontano da Gesù, ma io insistentemente, con dolcezza e avvedutezza, lo riportavo sempre sulla situazione della sua anima e della sua perdizione. Di tanto in tanto, l'uomo irremovibile e determinato aveva gli occhi lucidi ed io ne approfittavo per mantenere la sua sensibilità nelle cose di Dio. Ripetutamente fummo disturbati senza riguardo da un suo nipote di 14 anni, il quale voleva subito parlare con me, ma io lo ricacciavo fuori chiedendo di aspettare. Quando vidi che era ormai consapevole della sua situazione, gli chiesi se voleva decidere ora di arrendersi a Cristo completamente per ritrovare quella serenità spirituale e fisica della quale aveva bisogno. Gli chiesi se voleva rimanere solo ed egli annuì, cosa invece che non disse Camilla. Camilla infatti mi chiese di starle vicino al momento della sua resa a Cristo perché aveva bisogno di un aiuto, mentre lo zio preferiva stare da solo. Ancora una volta notiamo come ogni conversione sia unica e quanta sensibilità occorre in questi momenti. Uscii dalla cameretta e dietro la porta trovai ovviamente il nipote ad aspettarmi. Attesi pochi minuti e la porta si aprì. Lo zio di Camilla era ancora in lacrime, ma aveva nel viso una luce radiosa, non umana. Corse subito verso sua moglie e testimoniò di avere posto fede in Cristo quale Salvatore e Signore. Le urla di gioia coprirono le voci di coloro che affollavano la sala e subito tutta la parentela si trovò nella saletta per ringraziare Gesù Cristo per la sua potenza nel liberare il peccatore dalla schiavitù di Satana e dal peccato. Intanto, il ragazzo di 14 anni non mi dava pace. Così, per evitare la confusione che sul momento era aumentata perché tutta la parentela era uscita con grida di gioia, condussi il ragazzo nella cameretta. Mi chiedeva un parere in merito ad un episodio spiacevole avvenuto a scuola, ma mentre ascoltavo mi chiedevo se tutta questa insistenza da parte sua non fosse un'occasione dello Spirito Santo perché io potessi testimoniargli di Cristo. Già due persone nel giro di poco tempo si erano arresi a Cristo. Chi non mi diceva che la persona dello Spirito Santo quel giorno operasse in modo particolare anche su lui? Così, terminato il mio consiglio, gli chiesi com'era la sua situazione spirituale davanti a Dio. Il giorno prima il ragazzo era venuto al consueto incontro dei giovani del sabato e mi aveva udito affermare che chi crede semplicemente in Dio è perduto, perché anche i demoni credono in Dio sono perduti. Lui testimoniò di credere in Dio, ma, se era perduto, chiedeva che cosa doveva fare ulteriormente per essere salvato. Gli presentai Cristo non solo come una persona da adorare, da seguire, da amare, ma quale padrone assoluto della nostra volontà. Il giovane diceva di essere un credente, credeva in Cristo e in Dio, ma questi aspetti non avevano per nulla cambiato la sua vita. Egli doveva permettere a Cristo di modellare il suo modo di camminare e di pensare. Lo Spirito Santo parlò al suo cuore e il ragazzo pregò di voler credere in Cristo. Gli feci presente che volere credere non corrisponde a credere effettivamente. Allora il giovane, con fatica ma con volontà determinata, chinò il capo e chiese a Gesù di diventare il suo salvatore e il suo padrone. Alzò la testa radioso e testimoniò che pregando aveva sentito qualcosa che lo liberava. Ci abbracciammo. Uscimmo dalla cameretta e il giovane disse subito ai suoi genitori: «Pensavo di aver creduto in Cristo, ma ora sono un figlio di Dio». Questo è quello che fa lo Spirito Santo quando vuole, perché, com'è scritto, lo Spirito soffia dove vuole. E tu ne odi la voce, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Le giornate dello Spirito Santo non sono sempre così, ma se si è sensibili alla sua voce e alla sua opera, è possibile non perdere le occasioni che ci presenta. Febbraio 2007. Ellero.